Non è, in fin dei conti, una questione secondaria quali formule si utilizzino nella messa, quali posizioni si assumano e quali azioni si compiano? La Chiesa diviene visibile agli uomini in molte cose, nella Caritas, nei progetti missionari, ma il luogo nel quale se ne fa realmente maggiore esperienza, come Chiesa, è la liturgia. Ed è giusto che sia così. In fondo, il senso della Chiesa è di permettere che ci volgiamo a Dio e di lasciare entrare Dio nel mondo. La liturgia è l'atto nel quale crediamo che Lui viene tra noi e noi lo tocchiamo. È l'atto nel quale si compie l'essenziale. Entriamo in contatto con Dio. Egli viene a noi e noi veniamo illuminati da Lui. In essa siamo ammaestrati e ci viene data forza in una duplice forma. Da un lato, ascoltando la Sua parola, cosicché lo sentiamo parlare veramente, egli ci indica la strada da seguire. Dall'altro, per il fatto che egli stesso si dona a noi nel pane transustanziato. Naturalmente le parole possono essere diverse, differenti le posizioni del corpo. Per esempio, nella Chiesa d'Oriente vi sono alcuni gesti diversi dai nostri. In India, un identico gesto che abbiamo in comune ha in parte un altro significato. Quel che conta è che al centro ci sia veramente la parola di Dio e la realtà del sacramento. Che Dio non venga da noi investigato nei pensieri e nelle parole in modo freddo ed esasperato e che la liturgia non divenga una autorappresentazione.